Il terzo anello ad alta voce, per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. Avevano attraversato il bosco di pini annosi e avevano raggiunto la parte inferiore, concava, della valletta. Il campo doveva essere lì, sotto il ghiaione che vedevano salire davanti a loro fra gli alberi. Sì, il campo era lì, ed era un campo messo su bene. Per vederlo bisognava esserci proprio vicini. Robert Jordan capì che dall'alto era impossibile notarlo. Dall'alto, certo, non si distingueva niente, era celato come la tana di un orso. Mentre si avvicinavano, Jordan si guardò intorno circospetto. In mezzo al ghiaione si apriva una grande caverna. Accanto all'apertura era seduto un uomo, la schiena appoggiata alla pietra, le gambe allungate al suolo, la carabina appoggiata alla roccia. L'uomo intagliava un pezzo di legno con un coltello, squadrò coloro che si avvicinavano e continuò a intagliare. «Hola!» disse l'uomo seduto. «Chi va là?» «Il vecchio è un dinamitardo!» Pablo gli disse, posando il pacco dentro l'imboccatura della caverna. Anche Anselmo posò il suo pacco e Robert Jordan si sfilò il fucile dalla spalla e lo appoggiò alla roccia. «Non lasciare quella roba così vicino alla caverna!» disse l'uomo che intagliava il legno e che aveva due occhi azzurri in una bella faccia scura e pigra di zingaro del colore del cuoio affumicato. «Dentro c'è il fuoco acceso!» aggiunse. «Tu come ti chiami?» «Roberto!» «E tu?» «Rafael!» Dietro a lui comparve Pablo. «Ci sarà presto da mangiare!» disse quest'ultimo. «Hai tabacco?» Robert Jordan si avvicinò ai sacchi, ne aprì uno, frugò in una tasca interna e ne estrasse una delle scatole piatte di sigarette russe che gli avevano dato al quartier generale di Golds. Lacerò con l'unghia del pollice l'orlo della scatola, ne aprì il coperchio e la tese a Pablo, che prese una mezza dozzina di sigarette. Tenendole sulla palma enorme, Pablo ne sollevò una controluce. Erano sigarette lunghe, sottili, con il bocchino di cartone. «Molta aria e poco tabacco», disse. «Le conosco. Quell'altro con quel nome buffo, ne aveva anche lui». «Kashkin», disse Robert Jordan, offrendo le sigarette allo zingaro e ad Anselmo, che ne presero una per ciascuno. «Si mangerà subito», annunziò Pablo. «E quel forestiero con il nome strano com'è morto?» «Fu preso e si suicidò». «Come accadde?» «Era ferito. Non volle che lo prendessero prigioniero». «Ma i particolari?» «Li ignoro», mentì Jordan. I particolari della fine di Kashkin li conosceva benissimo, ma sapeva che in quel momento non sarebbero stati un buon argomento di conversazione. «Ah, ecco il pranzo», disse soddisfatto lo zingaro. «Tu hai mangiato?» disse Pablo. «E posso mangiare ancora il doppio», lo zingaro ribatté. «Ma guarda un po' chi ci porta da mangiare». La ragazza, nell'uscire dalla caverna con il grande tegame di ferro, si curvò. E Robert Jordan vide il suo viso piegato da una parte e subito notò quello che aveva di singolare. «Hola, compagno», disse sorridendo la ragazza, e Robert Jordan rispose «Salud», sforzandosi di non guardarla, ma anche di non guardare altrove. Essa gli posò davanti il tegame ed egli osservò le sue belle mani brune. Ora la ragazza lo guardava bene in faccia, sorridendo. I suoi denti erano bianchi nel viso bruno. La pelle e gli occhi dello stesso bruno fulvo dorato. Aveva zigomi alti, occhi allegri e una bocca regolare con labbra carnose. I suoi capelli, del colore bruno dorato, di un campo di grano bruciato dal sole, erano tagliati cortissimi su tutta la testa, come la pelliccia di un castoro. Fissando Robert Jordan e sorridendogli, la ragazza sollevò la mano bruna e se la passò sulla testa lisciando i capelli che, appena appiattiti, si sollevarono di nuovo. «Ha una bella faccia», pensò Robert Jordan. «Sarebbe bella se non le avessero rapato i capelli». «Io mi pettino così», disse sorridendo la ragazza a Robert Jordan. «Mangia, non mi fissare in quel modo. I capelli me li hanno tagliati così a Valladolid, ma ora sono quasi ricresciuti». Si sedé di fronte a lui guardandolo. Egli le restituì lo sguardo e la ragazza sorrise intrecciando le mani intorno alle ginocchia. In quella posa, le mani sulle ginocchia, le sue gambe uscivano lunghe e snelle dagli imbuti dei calzoni ed egli vedeva sotto la camicia grigia la forma dei piccoli seni erti. Ogni volta che Robert Jordan la guardava, La gola gli si stringeva. «Come ti chiami?» le chiese. Pablo, appena udì il tono della sua voce, gli buttò un'occhiata rapida. Poi si alzò e si allontanò. «Maria! E tu?» «Roberto, sei da molto tempo nei monti?» «3 mesi». «3 mesi». Egli le guardò i capelli folti e corti e ondosi, quando lei li lisciava, turbata adesso, come un campo di grano al vento sul fianco di una collina. «Me li hanno rasati», disse la ragazza. «Nella prigione di Valladolid li radevano regolarmente. Ci sono voluti 3 mesi perché ricrescessero così. Io ero nel treno, mi portavano al sud, e quando il treno è saltato in aria hanno ripreso molti prigionieri. Io non mi sono lasciata prendere, sono scappato con questi qui». «La trovai nascosta fra le rocce», disse lo zingaro, «quando già ce ne stavamo andando. Non era mica bella, sai, ombre. La prendemmo con noi, ma più di una volta ho pensato che avremmo dovuto lasciarla». «E quell'altro che era con voi al treno?» chiese Maria. «Quel biondo, lo straniero, dov'è?» «Morto», disse Robert Jordan. «In aprile». «Aprile? La faccenda del treno fu in aprile?» «Sì», disse Robert Jordan. «È morto 10 giorni dopo la faccenda del treno». «Poveretto», disse la ragazza. «Era molto coraggioso. Fai anche tu quello stesso lavoro?» «Sì». «Hai già fatto saltare altri treni?» «Sì, 3». «Qui?» «Nell'Estremadura», spiegò Robert Jordan. «Prima di venire qui ero nell'Estremadura. Si lavora molto nell'Estremadura, molti dei nostri lavorano laggiù». «E perché sei venuto su questi monti ora?» «Ho preso il posto del biondo». Robert Jordan si accorse a un tratto che non era solo con Maria. Notò anche che gli riusciva difficile guardarla, perché la sua voce si alterava troppo. Stava violando la seconda delle 2 regole che conviene osservare quando si vuole andare d'accordo con la gente di lingua spagnola: dar tabacco agli uomini e lasciare in pace le donne. E a un tratto si rese conto che se ne infischiava. Di tante cose ormai doveva infischiarsi. Perché curarsi proprio di quella? «Hai un viso bellissimo», disse a Maria. «Come sarei stato contento di vederti prima che ti radessero i capelli. Ricresceranno. Fra 6 mesi saranno lunghi abbastanza». «Avresti dovuto vederla quando ce la trascinammo dietro. Era così brutta che faceva schifo», disse lo zingaro. «Di chi sei la donna?» chiese Robert Jordan, cercando di cavarsela in qualche modo. «Di Pablo?» Lei lo guardò ridendo e gli batté la mano sul ginocchio. «Pablo! Ma l'hai guardato, Pablo?» «Va bene, allora di Rafael». «Rafael l'ho guardato». «No, nemmeno di Rafael». «Non è di nessuno», disse lo zingaro. «È una donna molto strana. Non è di nessuno. Oh, ma cucina bene, eh?» «Di nessuno davvero?» Robert Jordan le domandò. «Di nessuno, no? No, nessuno, né per scherzo né sul serio. E neanche tua?» «No», disse Robert Jordan, e gli si strozzò di nuovo la gola. «Bene, perché io non ho tempo per le donne, proprio no». «Nemmeno un quarto d'ora?» lo canzonò lo zingaro. «Nemmeno un quarto d'ora?» Robert Jordan non rispose. guardava la ragazza Maria e aveva la gola talmente chiusa che non osava parlare. Maria lo esaminava sorridendo. A un tratto arrossì, ma continuò a guardarlo. «Ti sei fatta rossa?» disse Robert Jordan. «Arrossisci spesso?» «Mai. In questo momento sei rossa. Allora torno dentro. Stai qui, Maria?» «No», rispose lei, senza sorridere. «Ora torno dentro». Prese il tegame di ferro dal quale gli uomini avevano mangiato e le quattro forchette. Si muoveva impacciata come un giovane animale, ma con la grazia di una puledra. «In quanti siete qui?» domandò Robert Jordan allo zingaro. «In sette, senza contare le due donne». «Due?» «Sì». «Ah, c'è la mujer di Pablo. E dov'è?» «Lì dentro». «La ragazza si arrangia a cucinare, ma ho detto che cucina bene per farla contenta. Ma per lo più aiuta la mujer di Pablo». «E com'è questa mujer di Pablo?» «Piuttosto barbara», disse sghignazzando lo zingaro. «Qualcosa di molto barbaro. Se Pablo ti sembra brutto, aspetta a vedere la sua donna. Ma ha fegato, ha 100 volte più fegato di Pablo, ma è barbara». «Quel giorno della faccenda del treno», continuò lo zingaro, «quando la raccogliemmo, la ragazza era davvero strana, eh? Non voleva dire una parola, piangeva continuamente, e se uno la toccava si metteva a tremare come un cane bagnato. È migliorata solo da poco, negli ultimi tempi invece è migliorata molto. Oggi stava benissimo. Poco fa, quando parlava con te, era completamente a posto. Quel giorno sul treno l'avremmo lasciata lì. Non volevo certo la pena di perdere tempo per una tanto piagnucolosa, brutta e che non sembrava buona a niente. Ma la vecchia le legò intorno al corpo una corda e quando la ragazza credeva di non poter più andare avanti, la vecchia la frustava con il capo della corda per farla camminare. E poi quando veramente non poté più andare avanti, la vecchia se la caricò sulle spalle. E quando la vecchia non poté portarla, la portai io. Salivamo su per la collina con la ginestra e l'erica fino al petto. E quando non ebbi più forza di portare la ragazza, toccò a Pablo caricarsela. Ma che cosa doveva dire la vecchia per convincerci? Scosse la testa ricordando. La ragazza ha le gambe lunghe, sì, ma non pesa molto. Lei ha le ossa piccole, pesa poco. Ma allora pesava come il piombo, dato che ci toccava portarla e fermarci per sparare e poi ricaricarla su. La vecchia frustava Pablo con la corda, gli portava il fucile, glielo porgeva ogni volta che lui posava la ragazza e la vecchia gliela faceva poi riprendere e gli ricaricava il fucile insultandolo. Gli toglieva le cartucce di tasca, le ficcava nel caricatore e intanto lo copriva di insulti. Era già quasi buio e quando calò la notte fummo salvi. Thank you. La storia del treno deve essere stata brutta, disse Anselmo. Io non c'ero, spiegò a Robert Jordan. C'erano la banda di Pablo, quelli del Sordo, che conoscerai stasera, e altre due bande di questi monti. Io ero andato dall'altra parte del fronte. Deve essere stato molto duro, disse Anselmo. Molto emozionante. È stata l'unica cosa buona che abbiamo combinata, disse una voce profonda. Che cosa fai lì, poltrone ubriaco, figlio di una porca zingara senza marito? Che cosa fai? Robert Jordan si vide davanti una donna di circa 50 anni, alta quasi quanto Pablo e larga quasi quanto era alta, con una gonna nera da contadina, un corpetto nero, grosse calze di lano sulle gambe grosse, scarpe nere con la suola di corda e una faccia scura come il modello di un monumento di granito. Aveva mani grandi, ma belle, e i suoi capelli neri, folti e crespi erano raccolti in un nodo sul collo. «Rispondi!» disse allo zingaro, senza curarsi degli altri. «Stavo parlando con questi compagni, e questo qui è venuto come dinamitardo». «Tutto questo lo so», disse la mujer di Pablo. «Ora tu fila e va a dare il cambio a Andrés, che è di sentinella sopra». «Me vuoi?» disse lo zingaro. «Vado». E volgendosi a Robert Jordan, «Ci vedremo all'ora di pranzo». «Nemmeno per scherzo», la donna gli disse. «Oggi, secondo i miei calcoli, hai già mangiato tre volte. Va e mandami Andrés». «Hola», disse Robert Jordan e gli tese sorridendo la mano. «Tu come stai? E come vanno le cose nella Repubblica?» «Bene», gli disse, restituendole la forte stretta di mano. «Le cose vanno bene, tanto per me che per la Repubblica». «Me ne rallegro», la donna disse, fissandolo bene in faccia e sorridendo. Egli vide che aveva due begli occhi grigi. «C'è un altro treno da sistemare?» «No», disse Robert Jordan, provando subito fiducia in lei. «Non un treno, un ponte». «Ah, no es nada», disse. «Un ponte non è niente. Ora che abbiamo i cavalli, quando facciamo saltare un altro treno, eh?» «Più tardi, questo ponte è importantissimo. Bisogna sistemare prima il ponte». «Dov'è?» «Vicinissimo». «È tanto meglio», disse la mujer di Pablo. «Facciamo saltare in aria tutti i ponti e tagliamo la corda. Non ne posso più di questo buco. Qui c'è ammucchiata troppa gente, finirà male. Vengono ad ammucchiarsi tutti qui, fa schifo». Adocchiò Pablo tra gli alberi. «Borraccio!» gli gridò. «Ubriacone! Ubriacone marcio!» Poi, volgendosi di nuovo vivamente a Robert Jordan, «Se n'è andato nel bosco con una bottiglia di vino per ubriacarsi da solo. Non la smette mai di bere. Questa vita lo sta rovinando. Sai, sono molto contento che tu sia venuto, giovanotto». Gli batté la mano sulla spalla. «Bene!» disse. «Sei più robusto di quel che sembri. Bene, bene!» Gli passò la mano sulla spalla tastandogli i muscoli sotto la camicia di flanella. «Bene!» ripeté. «Sono molto contenta che tu sia venuto!» «Volevo dirti un'altra cosa. Sii molto buono con la ragazza, Maria. Abbi per lei molti riguardi. Ha passato dei brutti momenti, mi capisci?» «Sì, ma perché me lo chiedi?» «Ho visto la sua faccia quando è tornata dentro poco fa, dopo averti veduto. Ho visto come ti guardava prima di venir via. Ho scherzato un po' con lei». «È stata malissimo», disse la mujer di Pablo. «Ora che va meglio, dovrebbe andarsene di qui». «Voi due, tu e Anselmo, potreste prenderla con voi quando sarà sbrigata la faccenda». Robert Jordan sentì che la gola gli si serrava. «Perché no?» disse con voce alterata. «Ai!» fece la mujer di Pablo e lo guardò crollando la testa. «Ai, tutti gli uomini sono così». «No, non ho detto niente. La ragazza è bella, lo sai». «Non è bella, ma comincia ad esserlo, vuoi dire», disse la donna di Pablo. «Uomini, è una vergogna per noi donne doverli mettere al mondo». No, parlo sul serio. Sotto la Repubblica non ci sono asili per ragazze come lei?» «Sì», disse Robert Jordan. «Ce ne sono di buoni, sulla costa, presso Valencia, e anche altrove. Bambini dei villaggi evacuati. Le insegneranno ad accudirli». «Proprio questo desidero», disse la mujer di Pablo. «Pablo è già preso di lei, è una delle tante cose che lo rovinano. Quando la vede è come se lo cogliesse un male, sarebbe meglio se la ragazza se ne andasse. Possiamo portarla con noi due a cose fatte. Se mi fido di te, Avrai cura di lei, di. Ti sto parlando come se ti conoscessi da secoli. Accade sempre così quando due si capiscono. Siediti, disse la mujer di Pablo. Non voglio promesse. Quello che deve accadere, accade, lo so. La porteremo con noi, disse Robert Jordan. Se saremo ancora vivi dopo la faccenda del ponte, la porteremo con noi. Il ponte è una faccenda molto difficile, hai detto. No, ho detto che è molto importante. Ma può essere difficile? Sì, e adesso vado giù a guardarmelo. Quanti uomini avete qui? 5, che valgono qualche cosa. Lo zingaro non è cattivo, ma non vale niente. Ha il cuore buono. E di Pablo non mi fido più. Quanti uomini in gamba ha il sordo? Forse 8. Vedremo stasera quando verrà. È un uomo molto pratico. Ha anche un po' di dinamite. Non molta. Parlerai con lui. Erano andati giù per gli ultimi 200 metri, strisciando cauti di tronco in tronco, ed ora vedevano il ponte, lontano ancora 50 metri, tra gli ultimi pini del versante ripido. Il sole del tardo pomeriggio, che ancora pioveva sulla spalla bruna del monte, faceva spiccare il ponte oscuro contro il vuoto della gola ripida. Era un ponte d'acciaio a un solo arco, ed aveva ad ogni estremità una garitta. Era abbastanza largo per dar passaggio a 2 automobili. Si librava con solida e leggera eleganza metallica su una gola profonda dentro la quale, giù in basso, l'acqua bianca di un ruscello saltava tra rocce e massi, correndo a valle verso l'emissario principale del valico. Mentre guardava il ponte, Robert Jordan si tolse dal portafoglio un taccuino e fece rapidamente un paio di schizzi. Avrebbe calcolato più tardi le quantità di dinamite necessarie. Ora segnò solo i punti dove andava messo l'esplosivo per spezzare i sostegni dell'arco e farne cadere un tratto nell'abisso. Tutto questo si poteva fare con calma, in maniera scientifica e precisa, con una mezza dozzina di cariche legate in modo che esplodessero insieme. Oppure il lavoro si poteva anche fare grossolanamente con 2 sole grosse cariche. 2 cariche grossissime, una per ogni estremità del ponte, che esplodessero insieme. Robert Jordan disegnava svelto e contento, contento che il lavoro cominciasse finalmente davvero. Poi chiuse il taccuino, infilò la matita nel suo fodero lungo la copertina, rimise a posto il taccuino e abbottonò la tasca. Nella garitta, proprio di fronte a loro sulla strada, era seduta la sentinella, tenendo fra le ginocchia il fucile con la baionetta inastata. Fumava una sigaretta, portava un berretto a maglia e un largo mantello di panno. Da così lontano non si distingueva il suo viso. «E l'altro posto di guardia?» chiese Robert Jordan ad Anselmo. è a 500 metri sotto quella svolta, nel casotto del cantoniere incastrato nella roccia. Quanti uomini? Sono i 7 uomini e un caporale, Anselmo disse quasi nel suo orecchio. L'ho chiesto allo zingaro. Appena quello lì si fermerà, ce ne andremo, disse Robert Jordan. Siamo troppo vicini. Hai visto quello che ti occorre? Sì, tutto quello che mi occorre. Tramontato il sole, l'aria ora si andava rinfrescando rapidamente e la luce si affievoliva via via che si attenuava il flusso degli ultimi raggi solari sulle montagne dietro di loro. «Come la vedi la faccenda?» Anselmo chiese piano mentre guardavano la sentinella attraversare il ponte diretta all'altra garitta. La baionetta luccicava nel crepuscolo, la figura era deformata dal mantello di panno. «Bene», Robert Jordan disse. «Molto, molto bene. Mi fa piacere», disse Anselmo. «Andiamo, ora non c'è più pericolo che ci veda». «Tu hai mai ucciso?» chiese Robert Jordan nella confidenza del buio e della giornata passata assieme. «Sì, più di una volta, ma senza piacere. Per me è un peccato uccidere un uomo, perfino i fascisti che abbiamo il dovere di uccidere. Per me c'è una grande differenza tra l'orso e l'uomo, e non credo alle stregonerie degli zingari sulla fraternità con gli animali, no. Sono contrario ad ogni uccisione di uomini. Eppure ne hai uccisi. Sì, e ne ucciderò di nuovo. Ma se rimarrò vivo, voglio cercare di vivere senza far male a nessuno, in modo da meritare il perdono. Da chi? E chi lo sa? Da quando qui non abbiamo più Dio, e nemmeno suo figlio, e nemmeno lo Spirito Santo. Chi ci perdona? Io non lo so. Tu non hai più Dio? No, ombre, no, certo. Se ci fosse un Dio, non avrebbe permesso mai quello che ho visto con i miei occhi. Lasciamolo a quegli altri, Dio. Quelli sostengono di averne il monopolio. Evidentemente sento la mancanza di Dio perché sono stato educato religiosamente. Ma oggi un uomo deve rispondere di fronte a se stesso. «Allora ti perdonerai da te stesso di aver ucciso?» «Credo di sì», disse Anselmo. «Visto che metti la cosa in tal modo, così nettamente, credo proprio che sia così, ma con o senza Dio sono convinto che è proprio un peccato uccidere. Togliere la vita a un altro è per me una cosa molto seria. Lo faccio se proprio è necessario, ma non appartengo alla razza di Pablo». Per vincere la guerra dobbiamo uccidere i nostri nemici. È stato sempre così. Certo, in guerra bisogna uccidere. Ma io ho delle idee molto strane, disse Anselmo.